Allergy, mi fa stare un po'. Allergy, mi fa quel paesile. Mostri invisibili sono da per porte strane. Sulla città degli umani. Sti eredenti scappate, non vi fermate mai. Pagano in città gli spettri neri. Ma neri, neri. Mi fa impazzire, mi fa salutare. Monster allergy, con il raggio del monster allergy. Mi posso domare, costa niente, sì.